anche il 50% di invalidità. Vabbè, comunque, io l'ho fatta nello stesso brano bocciato, l'ho fatta da poco. E mi è arrivata l'altro giorno la raccomandata, sono andata a ritirare, forse se lo sapevo non avrei fatto manco la firma, ne se ne frega. No, è sempre bello sapere cose. Io adesso ho parlato con una persona e hanno detto che faranno di tutto per darmi la pensione, perché oramai c'è un'età avanzata, abbastanza, loro hanno detto. No, ho già 57 anni, così che niente. Anzi, quest'anno sono 58. E niente, però mi hanno detto di mettere che ho diabete, che ho il coso, cioè ho i reumatismi nelle ginocchia, un po' nelle spalle, e poi di mettergli che sono stato operato al fegato, all'ernia, e niente, di mettergli tutte quante quelle cose lì e di ripresentare la domanda che loro ci mettevano sicuramente una parola, adesso bisogna vedere se è vero o no, comunque mi hanno detto di mettergli tutto e niente, che già me la faranno avere questa pensioncina, ma è una pensione da voce del rame, mi sono 220 euro. E vabbè, ma un pegnoccio. Quelli lì aggiunti agli altri fanno qualche gusto, no? Quanto stavo dicendo, sì, non è che sia niente di cosa, perché non si può chiamare pensione, non è l'elemosina. Papà, hai detto bene, non è l'elemosina. Pensione, chissà, la pensione dovrebbe essere adeguata alla vita di oggi, dovrebbe essere uno stipendio, perché uno che ha lavorato la vita, e poi arriva la pensione, ti dà di un gruzzoletto, muori di fame. Quanti vecchi si intende che non hanno più di grande manco per mangiare, ma solo per pagare la roba, e come fanno? Lui ha con quanto detto veniva anche in pensione, dice di fare cosa. Ecco, no, io adesso sto lasciando questo poco di tempo perché il 25 c'è la visita oculistica, gli devo portare tutti gli esami del sangue, mi fanno la visita oculistica, poi piglio tutte le cartelle cliniche, sia l'operazione dell'ernia, sia l'operazione del fegato e sia quella della aorta, gli metto tutto quanto insieme, mi faccio fare una relazione dal dottore dicendo che ho vari acciacchi e niente, e poi la ripresento. Sì, sì, io guarda, lo stesso, dovevo operarmi ancora al ginocchio, al menisco, dovevo fare l'operazione all'occhio, che ancora praticamente c'è la struttura che ha un il momento che dovevo rientrare mi chiama all'ospedale dopo mesi e mesi che ero in lista che potevo andare a operarmi all'occhio il giorno dopo, io il giorno dopo dovevo entrare a lavorare. Purtroppo succedono sempre questi tutti qua, capito? E niente, no, io adesso domani devo andare perché devo andare. Però domani gli dico, guarda che dopo domani non ci sono, che devo fare queste analisi. E poi il 25 c'è la visita oculistica, cioè è già avvisato che non vado, capito? Da casa mi piglio la metropolitana e mi accompagna sino all'ospedale. Ah, ma caro, io non l'ho ancora presa da quando l'hanno messa, ci credo. No, io l'ho già presa sempre per fare visite, però per me è una gran comodità perché arriva sotto casa praticamente, fa capolinea lì, la piglio, il biglietto costa un pochettino caruccio, però è valido un'ora e mezzo, capito? Se c'è la fortuna che entri e ti chiamano subito, puoi anche ritornare dietro con la metropolitana stessa, con lo stesso biglietto, altrimenti ce ne vuole un altro. Quanto costa il biglietto? 1,50 euro? Guarda, non me lo ricordo, io in quel momento lì ne ho comprato 3 e ce ne ho nel borsellino. No, io non sono mai salito, non so mai cosa così paga, ne devo prendere i biglietti, nulla. Ma gli stessi biglietti del tram comunque. Ah, uguali, so. Ehi, cioè tu vai, chiedi il biglietto pubblico e va bene per la metropolitana, sì. Ma il biglietto del tram credo che sia uguale a quello che c'è per Platamona. Ah, vabbè, già è più spiccicativo perché qua tu stai a cercare parcheggi e tutto, è meglio che metti la metropolitana, così ho fatto io, quando andavo a fare le visite, vabbè, non potevo manco guidare, ci andavo con le stampelle sul tram, mi accompagnava mia moglie quando poteva, quando dovevo lavorare non poteva, allora andavo con il tram. Ehi, gappa, ma per quello che è una comodità, se devi andare al Palazzo Rosa per una visita, per una cosa, hai capito? No, già è comodo. L'unica cosa che c'è di scomodo è che c'è l'orario del treno di sorso, cioè iniziano dalle 6, mi sembra, e alle 9 è l'ultimo, poi non ce n'è più. Ah, vabbè, se avevano fatto anche lì a Santa Maria di Pisa, speriamo che non lo distruggano, se non mi cavano da linea subito. Ma guarda, ti dirò che io la mattina, siccome vado a pigliare uno che viene da Sorso, no? E vado lì alla metropolitana, al treno a prenderlo, e vedo che la metropolitana qui a Santa Maria di Pisa la pigliano in tanti, canta niente a pagliare un biglietto con un gioco. Allora, mangiando va sempre la via, e col piazzale che c'era lì, non so se tu te lo ricordi, cioè col piazzaletto, no? Quello lì è sempre pieno di macchine, prima era sempre vuoto. Ma dimmi una cosa, dove passa? Dove c'era la ferrovia prima, dove c'era la biglietteria che poi c'era la chiesa di Don Gavino? Esatto, si ferma proprio lì alla chiesa di Don Gavino. Gava, gava. Vabbè. All'ex chiesa, dove facevamo la festa di Santa Maria Bambina. Capa di positivo. Beh, adesso c'è la grande, lì c'è un circolo ricreativo che mi sembra che sia, comunque, c'è un circolo al posto del coso della chiesa e il coso si ferma lì. E ti dirò di più, hanno messo pure il pullman dell'arte che fa da Santa Maria di Pisa a Sassari. Così, oh, sì. Fa solo con la linea lì oppure proviene da qualche paese? No, credo che sia la linea lì che faccia quel pezzo, buh. Comunque, solitamente facciamo sempre linee lontane, queste dell'arte, minimo 20 chilometri. 10, 15, 20 chilometri, quello sì, ma di solito le città non ne facevano mai. Vabbè, adesso sta un po' mischiando tutto, cosa perché l'ARS si è associata alla TP, solo hanno fatto una specie di fusione, capito? Si sono fusi tutti. E allora? Ancora sì, tu, vai a lei, a corsi, che domani devi andare presto. Mario. Dimmi, caro caro. Ah, è vedete, mamma mia. Stavo preso con Giuseppe, mi sembrava Giuseppe. Che esagerato, vabbè che sono cosa detta, ma sembrava per Giuseppe con questo pubblico. Ho aperto Mario il perché non saliva lo Smith. C'è la ricezione, cioè lo Smith era regolare, quello a display. E anche l'altro che è due. Vedi, adesso in questo passaggio ci è uscito bene. Dovrei andare a comprare CRC, sfruttando la bella passata di CRC a questi due sguida. E così anche lo mettiamo anche al coso che c'è intorno, a parecchio a quel che avuto, perché c'è quegli sguida e tutti della palla pare incollati. KK. Poi vedo se qua vale la cosa. Il monometro del meglio, ecco, anche io. Ancora di alla banda. Io lo fa. Hola. Ciao, va bene. Non mi lamento, mi lamento, non mi lamento. Mi sollevo. E comincia a fischiare male la tua strega del comune. Fischia perché ci sono stazionali. Ah, cazzo cazzo. L'M47 l'ho controllato, sono riuscito a farlo accendere. Però mi spero non si accende, vabbè, forse riesco a accendere qualche pulsantino. L'audio, ci arriva tutti i fili staccati di alimentazione, cosa ne sai, no? Domani metto i calvetti, vedo di salvarli bene, così vediamo se funzionali, se si accende tutto. Allora, giocare. Ne stanno uscendo gli occhi fuori. Ah, quello stavi controllando anche, quello piccolino portatile. Sì, l'M43, quello piccolino portatile, stavo controllando. Comunque, se riuscite a accendere, a farlo funzionare. Sono riuscito a accenderlo, sento l'audio basso, basso, basso di alternato, non è tanto. Però il display non si accende, forse forse si dà molto uno squelcio, non lo so. Adesso con le mattine lo faccio con calma, vediamo quando ritorno a casa verso le 11, così te lo sistemo. D'accordo, mi prende già. Aia, aia, aia, aia. Aiuto a Toto, che siamo parecchi. L'alimentatore è a posto, dove? L'alimentatore è a posto, sì. Adesso l'ho messo a 50, un cazzo deve fare l'alimentatore. Io mi ha messo tutti i 5 finali. Io pensavo la verità che avevo quel dubbio, sì, che magari non funzionava e mettendolo così a 50 watt deve arrivare a volo. E invece non c'era nulla, nel trasformatore nulla, perché gli era stato detto a Mario che dice che c'è il trasformatore bruciato, una parte voleva pigliare soltanto nel trasformatore, quindi sembra basta, niente che sembra strana per questa cosa. Anche perché è nuovo luogo, anche se c'è 10 anni con l'alimentatore era perfetto, ormai era prima guida. E allora gli ho cambiato i finali, il centro dei finali c'è più già speso, lo sai. Però almeno è una spesa modica, in confronto all'alimentatore che tanti anni fa gli avevo regalato a Mario, avevo pagato 200.000 lire a grassi, figurati. Mi dispiaceva la vita, è come se fosse mia in teoria. Però mi dispiace che quando le cose si guardano, capito, cose buone, perché con l'alimentatore è veramente buono, dai, gli dà 25 ampere, gli dà anche di più. Solo d'estate magari è capitato come c'era un po' di tempo di caldo, ma lo scolettore scaldato i finali e si esopri qua, che a volte succede. Infatti, è successo anche a me con Galaxy. Mi si è rotto il modulatore, la resistenza al modulatore e due finali sono partiti. Sicuramente dalla caldo proprio. Sì, sì, come non ha fatto caldo l'anno scorso, erano 38-40 gradi. E io ogni volta che facevo l'estate, io me lo ricordo sempre, ogni volta mi partiva appunto i diodi. In quell'alimentatore là, ne ho le palle a piene, o l'alimentatore di diodi, oppure partiva nei condensatori. Vabbè, lì. Interessante poterli aggiustare. Così è capito, ti piace risumare la roba. A proposito, non l'ho sentito già qualche giorno, no? Come mai? Non so perché. C'era ieri a Marachino, ieri notte. Ah, ieri c'era. Ah, ieri notte non ce la va. Eravamo in giro ieri notte. Voi siete andati a vedere le muraglie dove vado io, no? Di solito ai giorni soldi. Invece non c'ero, siete venuti a cercarmi, cari morti. Ui, si aspettano a me quelli di ui. Sono le buone campane. Io dico la verità, non ne ho bisogno. Non mi interessa, mi fanno pena, mi fanno pena, perché vendono il loro corpo. Sì, vabbè, mica sono andato io a vendermi, cioè a pagare a loro, è stato fresco, già lo sa Mario. Io di quelle che conosco mi hanno sempre pagato, anzi forse è una cosa, alle furbe. Ma ti do 3 euro, non ho 5 euro. Allora passo un po' domani, ma non me ne faccio l'altro, non me ne frega niente a me. Sono fatto così, il lavoro è un lavoro mio. Come loro si fanno pagare la prestazione loro, io non posso pagare la mia. Solo che io non penso come è andato a pagare. Il discorso è quello che lo possono soffrire. Io non faccio lavori a conto con aggeggio, mi dispiace, ma preferisco prendere io. Me ne vado a fare riperto con pizzeria. Ah beh, ok. Allora, ma continui di malattia. Sì, vabbè, che gusto è? 10 minuti, esatti, io non ci sono. Ciao. Ma 10 minuti proprio? Cosa favo 10 minuti? Nulla, avanti. 10 minuti? Sì. Allora. Fate di secchiere. Noia. Ma mangiamo una scampa. Fate credere che va mezz'ora, o un'ora. 10 minuti, massimo 15. Se oltrepassi quella cosa lì, vale la cifra, capito? Per tutta la notte sono dai 1.000 ai 5.000 euro che vogliono lì. E visto a cosa? A quel guasto della regione Lazio. Quanto ho pagato per una notte intera? Gli hai ricordato io? Quelle sono viziose che c'hanno anche i soldi. Oltre che tutta gente è più viziosa, ricorda. Perché ha provato tutto dalla vita per provare anche il costo del pitch. Che te ne ho di alcuna di alla regione, non ti preoccupare. Gappa. Interessante che non ce li abbia, aspetta, la dirabiliati. Quelli si sanno, sai. Si servono da soli, a dire la verità, ho sempre ritirato i soldi da loro, ho fatto sempre lavori a loro, mi sono divertito, ci ho anche mangiato, quello sì, però ognuno ha posto con le mani sue, tu e basta, capito? Sì, ma già ti coccolava intanto, quello sì, non è bello farsi coccolare, a me lo ti chiamano sempre quando c'è qualcosa da fare, ma mi sono certi che conosco io. E devo sistemare una parabola, non ne vanno a fare conto cosa, capito? Antennale, così. Maria, vai. Ah, sono qua, la gente fa bene il fubuco. Ah, sono qua, la gente fa bene. Basta, non si muove. Avvinne. Ci sono anche maschietti che si stanno la donna, ma sì. Quando ero ricoverato a cose per le mancini, l'antimale mi sembra c'era, quando io stavo a baracchino, tu mi sembra non c'eri. Una via ci ho fatto un capezzo pericoloso, di mercurio cromo in testa gli ho fatto, tutto si è dovuto cambiare. Chi ha rifibrillato? E allora? Come vedi, all'ottorino ingoiato? No, su, sopra quello, c'è la dermatologia, noi per le mancini c'era. E venivano cambiati all'interno del cortile, proprio sotto la finestra mia. Agli ombrigliati, il mercurio come me l'ha girato in testa, tutto in pieno, vestita, poi si è venuto a finire tutta la notte. Io dico una cosa, non condivido certe cose, ma le rispetto. Sono fatto così. Io non li condivido, perché per me nella vita ci sono, Dio ha creato maschio e donna, e ognuno deve avere la sua qualità, il suo senso, le sue cose. E queste persone qua, a me, non so se mi fanno un po' di senso, di gruppo, la vedo come una cosa fuori dal normale, ecco. Già, quando ho ricoverato lì mi ha detto un po' di male un testimone come lui. Ogni volta che veniva mi portavano vino, sacchetto, birra. Non ero in ospedale, no. Sembravo in una cosa non azzeminata ogni azienda. Uno si era portato una volta 10 litri di vino. Se l'avessero vicino a qualcosa, al pippetto. Chi da male sono, è vero? Stappa, le salsicce, è vero, popù. Le pelette. Per farsi il flame, poi c'è la bruciata. Poi abbiamo fatto il sacco, ci avevamo corretto la moneta noi la mattina. Ma avete bevuto? No! Mia droghiaia. e mi sono messo il paracchino di lamento io, facciamo schiattare le infermiere ogni notte, mi dice, ah? Cioè, voglio stare a letto, già, allora, poi arrivavo io, salsicce, vino, pane, birra, la cosa non li bruciavo. Vivo già, mi ha portato 6 bottiglie di birra e si è bucata la busta e gli ha toccato il treno, dove sentire voi la birra, voi la vergogna ne avevo, sono andato veloce, mi chiamo straccio diretto prima che passi la dottoressa. Sono un'infermiera per lo vedo io, dice ancora ne hai un po' di vino, dove vai, aspetta te lo prendi. Io gli avevo qua, non avevo combinato di ospedale. Mi sono sempre divertito la vita, e se no guai, ti dico di cosa. Mi sono entrato a parte di mangiare, ma avevo 2-3 mesi di buttato. Sempre per il problema delle mani. E allora, sempre per il problema delle mani. Ma non è risolvibile lì? No, assolutamente. Guarda, l'ho risolto una volta che... Cazzo, facciamo un tigio di sesso, mi sono sparite per 3 mesi, figurati. Raccontino, vuol dire che non le stai facendo? Oh, non ne ho adesso, ma che ne ho pochissime, sto usando il cortisone. Ma c'è chi usava le pastiglie, ti cambia l'umore, ti mette nervoso, eppure può pigliare il sole, capito? Quando stai pigliando le pastiglie può pigliare il sole. Tu mi metti come le cose, mi metti come la soldata. Anche la mia collega mi sono preso però da grande, è mancata di melanina, così è. Che lo stress è quello, eh. Non vedi gente, questa malattia qui viene dai 18 ai 35 anni, dopo 35 non sei più a rischio. Però c'è stata una persona che è di Usi, mi sembra che era. È venuto già qua a 55 anni, dice io mi avuto una ricevita mia, questa cosa qui non l'ho pure, è una cosa bella, mi ha detto al medico. Anche questa mia collega l'ha avuta la grande, questa mia collega c'ha 49-50 anni. Allora stessi, prima ti pigliava in testa, sotto la testa, con le ginocchia, e cosa? Se poi mano a mano la cosa si è più grave, perché c'è quella che è superficiale e quella all'interno. Quella all'interno è... Io l'ho sofferta e quando uscivo in moto c'era una piangere e dolori. Che fa male anche, non ero al corrente. Questa mia collega ha cominciato a farla nel collo, nelle labbra, sulle labbra, poi nelle mani, adesso di piena in piena si fa quanto. E anche di sotto, quella testa dove ci si riempie di rossaglia. Beh, tutto il corpo, anche quando sono un gaggio di moto che mi ha risparmiato, ho fatto un ematoma a mano dalla panza, no, mi ha preso, io ho sbattuto sul cordolo che c'è sulla BBVD dove hanno fatto la strada nuova lì. Prima era senso, con questa qui mi ha frenato di colpo, stava provando i freni della macchina, io ho frenato, avevo la moto nemmeno un mese, mi ha pizzato, mi si è girato il manubrio e sono caduto sopra quel cordolo di cemento. Mi ho fatto un ematoma grande, enorme, Mario. All'ospedale ancora non ho visto che la fatta. No, non avevo mai visto un ematoma così grande, enorme, mi partiva. Dal fianco mi prendeva tutta la pancia, lì sotto, e tutto sino ad arrivare dietro nella schiena. Meglio non avere batturata, già. Grazie. No, ma sono caduto molto fermo, mi pare, non sono caduto a camminare. Praticamente io sono riuscito a frenare, perché questa qua è inchiodata, e la moto però non la conoscevo bene, perché ce l'avevo da poco. L'altra sì, la prima versa la conoscevo, quella nuova no. Questa che ha frenato di colpo. Io ho frenato, praticamente mi si è girato il manubrio, però da fermo. Non ce l'ho fatta tenere né qui, mi sono caduto da fermo, capito? Però ho preso una bella pestata, ma non so, soprattutto il cordolo di cemento, me l'ha curato. Gatta, gatta, ciao Giulia. E non l'hai curata. Mi ha detto, mi scusi, se vuole la compagnia all'ospedale, ma vada via, vada. Se ne vada! Che stai dicendo della mia madre da malamente? Ma domani non si può approvare in freno, una paese da lì si fa macchina, si fa moto, frena di qua, con questa qua ce l'ha fatta frenare, la moto si è fermata, però mi si è girato il malù, quando ti pizzano sai come le fa. E dopo mi hanno regalato i pilari, anzi sono andato a lavorare, tutto tanto graffiato, il cazzo mi vede il mio collega, no mi dici che ci troviamo tra nuova, purtroppo si qua, tutta la carena la devo cambiare, infatti ho cambiato la carena, si è dentro lì. Giovanni, questa volta la carena che era molto. No, guarda, la moto non costa 7.000 e passa io. Ma quanto ti sei preso? Suzuki 400. Mi scuterone? Gaba. Ah, cappagato, no, io pensavo che ti avevi preso lo scuterino piccolino. No, non ne ho mai avuto, ma io lo scuterino piccolino l'ho avuto già, ragazzi, ho avuto l'SR, ho avuto il ho avuto la Vespa, quello è da ragazza, però adesso ho avuto un 150 e sono preso il 400. Cappagato. Ho preso il Suzuki, perché ho visto che già 150 ha camminato a Gogo, adesso ho preso il 400, ma non mi basta mai. Io sono Cuba, se fosse stato per me avrei comprato con questo della moto da strada. E non ha voluto mia moglie, guarda, se tu conosci, se tu fai la moto da strada ti frappineggi, perché sai, più dentro di accelerazione ti accende. Ma guarda, non è vero niente. Già è vero, c'è molto un amico Vanio che era bravissimo a fare moto, ma bravo, bravo, bravo. Anche io ne ho avuto amici bravi che correvano con la moto. Io guarda, anche con l'ultimo che ho preso, l'altra volta, l'anno scorso sono sceso a Porto Torres, ma sono sceso per farmi un giro, E niente, sono arrivato lì dopo pigliato praticamente la discesa del coso là, un po' prima di Rioni, dove c'è quell'altro bito, Monte d'Ancur, di Sorso, ho pigliato lì e stavo camminando intorno ai 140 e ho detto, tra me e me, ho detto, a vedere cosa fa questo ciclofuso tirandogli l'acceleratore. Ho tirato, gli ho dato un'accelerata, ma in un attimo sono arrivato a 270, quindi ho mollato il tutto. Ero qui, ho detto che poi aveva la sensazione che camminava bene. Ma è giusto così, io non è che me l'ho pigliata per fare gomma o per correre, è stata un'occasione, pigliata me l'ho ricomprata, capito? Io prima c'avevo Suzuki e 650, 16 valvole, mi Popolio già l'ha conosciuta e l'avevo fuso e niente. E l'ho fuso facendo la campagna di Pompugno, ho dato una stracciata, sono arrivato lì alla pretesa, con un motore giurato. E come mai non ve l'ho? Papà, ho dimenticato i metri di luglio. Quello mai, io sono Cusignolo di Sicosia, qui adesso non te lo fa più, perché a me mi scrive scegli voi, mi scrive cambio olio. No, ma in questa via non lo segnava l'olio, capito? Lo segnava l'olio e poi io ero sceso così, perché molte volte portavo pure mio figlio con la mini moto e si giocava lì dove c'era, dove adesso c'è Milesi Racing, però prima lì c'era Corso, quello dei Campici. E da venire si giocava lì, e giorno siamo andati con la moto, però siccome facevo sempre poca strada, perché praticamente la moto era un ufficio che avevo, se no di solito io viaggiavo in macchina, il giorno l'ho preso, non ho controllato niente, pigliato e sono andato a Pompugno. Dopodiché quando sono ripartito ho dato un'accelerata, forse ho accelerato troppo, magari se camminavo piano non l'avrebbe fatto, capito? E niente, e si è inchiodato e l'ho dovuto buttare via perché non valeva la pena metterlo a posto. Adesso mi è capitata quest'altra occasione, ho pigliato e l'ho presa. Ma poi dal meccanico del Fiat la vedi quella. Beh, quella che può non aggiustare, non so cosa ti è successo, l'incidente che fa. No, a me no, a Davide la stava provando ed è caduto, mi aveva fatto 2500 euro di danno. Cazzaroli, ma adesso a posto ce l'hai a casa? Sì, ce l'ho il capannone però. Non la stai usando, vabbè, adesso c'è il tempo. Adesso te la senti di usare la moto. Beh, non lo so, appena che l'ho aggiustata in corso, ero appena operato e mi faceva male la pancia perché c'è il serbatoio che è quasi a punta, la parte dove ti curichi. E niente, e ho detto di già rimane posteggiata, poi quando mi sentirò meglio la uso. Ah, beh, ti certo, compri una moto, più comoda, un motorino oppure uno scooterone, no? Che sai meglio. Ma guarda, lo scooterone, boh, sarà che io sono abituato a andare in mezzo alle gambe la moto. Non mi piace, no, una mattina, cioè ti siedi lì e non vai nulla da incalzarti, si è manteso giù dal manubrio. Invece con la moto, quando freni, anche se stai camminando, stringi un po' con le cusce e rimani incollato alla moto. Invece, nello scooterone, se dovessi inchiodare, si è mantenuto solo al manubrio. Tutto il volto se ne va per i fatti suoi. Ma non mi butti più, va. Ti freno prima col freno di dietro, poi tocco di meno, quello di davanti e quello di dietro di più. Già frenano a te. Ecco, pagato, ma io, sarà perché sono fatto male, non lo so, mi rende più sicuro quando ce l'ho in mezzo alle gambe la moto, a essere appoggiato così, no, qualcuno ti tocca e ti risubito pure, no, invece quando la friggi riesci a controllarlo, gli dai un colpo di schiena o coso, e riesci a tenerla magari in piedi. Quella là ti toccano proprio di cervello. Ma quella moto lì sopra già ti cavano addosso. E poi ne ho visto troppo di quelle moto lì. Ho visto quel ninja dopo Graziella che si era sbattuto con quella macchina. Io non riesco a scattare la macchina, avrei incassato dentro e due morsi in terra. Già lo so. E anche quella che l'ha morta alla fattoria, gli è entrata quella moto dentro. Sì, ma un po' di anni fa, però quello me lo ricordo, l'ho visto io, sai, ha sfondato la macchina. Cappagata, io non ero dietro. Io l'ho visto, era proprio all'incrocio, lì è successo. Cappa di positivo. E cosa dovevi fare? Quello lì succede quando uno non c'è sale in testa. Perché la moto si produce, però devi stare un bel attento. E quando stai tirando l'acceleratore devi essere sicuro che non finisce nessun ostacolo davanti, anche se no sei messo. No, io te l'ho detto, stavo camminando tranquillamente, 120, 140, poi l'ho voluta provare per vedere anche l'effetto che faceva e come si comportava la moto, ma in un attimo ero a 270, dritto, adesso a pisì, nulla tutto. Beh, io quando sono caduto non mi avevo messo molto giù botto, c'è tutta l'attrezzatura della moto, siccome neanche in estate, era in agosto, non mi sono messo manco giù botto, e giù botto i pantaloncini corti e la magliettina, proprio vestito da turista. Per fortuna non mi sono fatto male, va. Diciamo che l'ematoma si è subito tutto quanto, però grazie a Dio le ossa non mi sono fatto nulla. Sei stato fortunato, perché già lo sai come cadi, non sai mai come arrivi, ed è un macello. Io perché, cioè la moto a me mi piace, però allo stesso tempo la temo, e quel fatto di temerla ti salva sempre la vita, perché stringi le cosce, cerchi di ragattare, però la moto bene o male riesci a controllarla. Io lo scooterone non mi piace per quel motivo lì, perché se è seduto, se non riesce seduto tutto va bene, però se capita che qualcuno ti tocca o cosa, ti sei paradura e non mi piace per quello lì. Ma io ti dico una cosa, che nella volta che sono caduto io prima piegavo, facevo quelle due sassoli sviliate a manettone, mi potrebbe azzerare la livace e cose, perché quella moto lì ti permette anche di fare curve basse e cose, perché tiene bene in curva. Adesso non lo faccio più, c'ho paura, nella volta che sono caduto c'ho una paura tremenda. No, io non è che ci abbia paura tremenda, però so, io mi sto sedendo sopra due ruote e quelle due ruote le devo controllare io. Poi stessamente, secondo come ci ti tocca, mi decido, ma a te sì, anche in casa ti fai male, se te ne parla la moto in nato, come te ne farà da me vidurlo, non riesci ai figli e da sotto. Anche un bel pesante, pensa che io mi è scivolata, non che sono caduto, mi sono fermato lì vicino al capannone perché c'era un cane in manovra e mi sono fermato. Però la sfortuna mia che cosa è stato? Che mi sono fermato e c'era un bel di sabbietta. Io anche se ho messo il piede per terra, non riuscivo a attaccare le scarpe. E la moto piano piano scivolando nella sabbia e il piede che se ne andava a piedi fatti sui, la moto praticamente mi si è coricata. Sono andato a alzarla da solo, non ce l'ho fatta, ma l'ho dovuto aiutare. E a me è successo la stessa cosa. A me è successo che sono andato alla Sisa una volta. Ho visto dove metto tutte le moto sopra, per marcia anche dei vecchi, dove loro mettono i traspasi, le cose. Era già un'ora tarda, la richiesta era già arrivata, quindi ho detto problemi non ce ne saranno. L'ho messa lì sulla moto, faccio la spesa e intanto viene questa guardia giurata e mi fa, dice, è sua quella moto che c'è fuori? Sì, me la deve spostare subito. E perché? Cosa è successo? No, perché lì non si può lasciare, quello lì è terreno privato. Ho detto, vabbè, anche qua è terreno privato, ma se noi non facciamo la spesa non lavora manco lì, così glielo risposto. Comunque, preso, sposto la moto, questo la sposto, no, lì non va bene, la metà di lì, me ne fatta pulire, chi sa fare la doccia, io vengo. Metto la moto, poi vado, prendo la spesa, già che mi veniva male col carrello lì a caricare la moto, perché il carrello si andava tutto giù e cosa, vabbè. Mi ha avanzata solo la busta con l'anguria, perché passavo sempre lì a pigliare l'anguria fresca, l'estate, perché la metto nei frigori, no? Vabbè, tolgo il cavalletto alla moto, metto l'anguria in mezzo dove metto le gambe, però l'anguria mi stava perdendo l'equilibrio della moto, come ne è discesa, no? Mi si era avvarendo, io ho frenato, me ne è scesa l'anguria, sono andata a chiappare l'anguria, ma ne è caduta la moto sopra, diga. Io dico che mi hanno preso pizza a bolso d'ora, gli dicchini che ha girato, mi ha aiutato il signore che c'era la pedana sopra le gambe, le mani. Poi il fratello mi ha mandato a chissà guardia giurata, ha detto si poteva aspettare 5 secondi, non le faceva male, aspettate lui, poteva aspettare meno, l'avevo già pagata la roba. Poteva anche aspettare, no, mi sposti prima la moto, qua là non la può lasciare, è un prepotente, che vabbè, già ogni nodo mi dà subito di viaggio. E io l'avrei lasciato cantare. La via di Tumani è pulsare a dura la moto, allora carreggia per il suo candente, però la moto non ha il pulso, la carreggia per il nando, cosa il pulso alla moto, non c'è che andare. Infatti, mi ha detto che era un territorio privato, ma lui, cazzo tutto il territorio privato, no, non lo barcheggiare, tutto il territorio privato, anche nei negozi privati, ho detto, però se non ho coca, ma con tu la vuoi, usi la giustizia. Vabbè, ti così, se i clienti non ce l'hanno, dove vado a aiutare? Beh, tutta una catena lì, si sanno. Ma ce ne sono certi, guarda, con i biglietti di carne. A pagare, ma che la giusta parte, cazzo, non lo so. Domani se va a lavoro, mi già. Buonanotte, buon tutto, e ce la riascoltiamo alle prossime, se no domani si canta un cucù. Vabbè, dai, ciao Mario, dai, ci sentiamo, mi ha fatto piacere conversare con te. Alice, sì, sì, sì, buonanotte anche a te. E buona giornata per domani, ciao. Ciao, buona giornata anche a te per domani, buon tutto. Saluta i grigiellini e niente, e tutte le prossime. Buon trabacco, buon tutto. Ciao, ciao, ciao, buon poco. Ciao, ciao.